Una buonasera, Città del Capo, Radio Metropolitana, se ancora così lo volete chiamare, probabilmente sì, insomma, per tanti versi. E, Città del Capo, appunto, come dire, dà l'onore a Max Macchia di presentare questa sera 451 frammenti sonori, chiaramente un onore che poi viene anche trasportato sul blog, trascinato come file, e quindi potete insomma ascoltarlo su 451frammentisonori.noblogs.org. Così saluto, oltre che il mio compagno di strada, che ormai insomma veramente di strada ne abbiamo fatta anche non fin troppo, perché sennò magari qualcuno pensa male, no, però ne abbiamo fatta insomma tanta, Eliseo Scarpa, chiaramente, che questa sera non c'è, ha lasciato insomma le redini della faccenda al sottoscritto. Speriamo insomma che come dire regga bene la carrozza, la carovana, anzi, che si sposta insomma in maniera avventurosa nei territori della sperimentazione di 451 frammenti sonori. E chiaramente saluto, appunto, il blog serviva anche a quello, anche Lorenzo Albano, che è un po' la nostra eminenza grigia, colui che è dietro il blog, ma non solo, visto che poi collabora a vario titolo alla trasmissione. Saluto anche ospiti vari ed eventuali che sono qua o forse aleggiano, come dire, dentro 451 frammenti sonori, ma è possibile anche proprio in questo momento. E questa sera antiche scale, antiche memorie, in effetti un po' sarà una sorta di scala, di anche insomma una sorta di scala anche piuttosto naturale, quasi un cammino impervio quello che andremo a percorrere, tentando insomma di affondare dentro le memorie sempre della caverna dei sogni proibiti, dei sogni dimenticati di Herzog, che d'altronde dava anche il titolo alla scorsa trasmissione di 451 frammenti sonori, The Cave of Forgotten Dream, perché questa sera appunto le antiche memorie va proprio ad affondare su quel crinale, diciamo così, di memorie che vengono riproposte in chiave assolutamente creativa, quindi anche svincolata dal senso storico e temporale. Anche in questo senso c'è un collegamento con la scorsa trasmissione, e soprattutto si cibano di memorie, usiamo il plurale perché comunque la trasmissione avrà vari approcci a questa materia piuttosto calda e volutamente anche piuttosto ribollente. La memoria e le memorie in alcuni casi non diventano luogo stantio, anzi luogo e tempo aperto, quasi appunto ad eliminare questo famoso spazio-tempo di cui parlavamo la scorsa volta, appunto nella caverna di Chavaux in Francia, dove Herzog appunto ha compiuto le sue riprese. E proprio tornando su Herzog, se l'altra volta insomma erano un po' nascosti tra le pieghe delle varie formazioni emesse, delle varie progettualità che 451 vi ha passato, questa sera sicuramente un debito che dobbiamo verso Herzog, non soltanto noi di 451, ma come ascoltatori e oltre che come anche telespettatori tante volte, o cinespettatori, anche come ascoltatori appunto musicali, cioè quello di ringraziare Herzog anche per averci fatto scoprire Popol Vuh, formazione incredibile che per tanti anni è stata legata al grande regista, e con loro probabilmente si apre un percorso eccezionale dentro le musiche tra virgolette rock, dentro il suono cosmico tedesco, kraut rock, qualcuno insomma può anche ricordarlo come tale, forse non così, non è particolarmente esplicativo kraut rock, se non insomma diminutivo e forse anche un po' vezzeggiativo. E con Popol Vuh si va proprio dentro quella memoria storica che ricorda antichi rituali, musiche celebrative, musiche ritualistiche che vengono ripercorse appunto dal grande Florian Fricht. E Popol Vuh d'altronde prende il nome insomma dall'antico libro dei morti egiziano, e proprio con Popol Vuh iniziamo questo lungo cammino verso queste antiche memorie, questo risveglio appunto di spazi temporali lontani nel tempo, forse definitivamente persi, e per questo tremendamente creativi ancora nel loro essere, piuttosto vivi e revificati appunto da questi grandi personaggi che stasera passeranno qua da 451, e partiamo appunto con Florian Fricht e il suo splendido, meraviglioso progetto come Popol Vuh, proprio all'inizio, quando si apriva un'epopea proprio legata a musiche che non soltanto in maniera colta, quindi i vari minimalisti avevano preso come musiche balinesi, il gamelan, alcune musiche ritualistiche, cicliche, marocchine come il jajuka, ma anche appunto il rock, la musica bassa, tra virgolette, come veniva ancora considerata all'inizio degli anni 70, prendeva a pieni mani, proprio da queste antiche musiche tradizionali, e ne faceva veramente un viaggio sul serio cosmico. Popol Vuh, antiche memorie. E se con Popol Vuh abbiamo toccato i vertici probabilmente delle musiche rock, tra virgolette, sempre ritualistiche, mantriche, storico disco loro dedicato proprio al mantra, Osanna Mantra, uno dei grandi capolavori degli anni 70, ma non solo, del rock più visionario, più allucinato, più incredibilmente cosmico. E se abbiamo preso Popol Vuh per iniziare dedicando, insomma, e facendo anche un collegamento con la vecchia trasmissione di 451, appunto dedicata a Herzog, con Nubio, come insomma tra Sergio Leone e Ennio Morricone, o come tra Fellini e Nino Rota, cioè quei grandi incontri tra musica e cinema che pochissime volte avvengono, e sicuramente uno dei più belli, se non il più bello, sicuramente quello di Popol Vuh insieme a Herzog. L'abbiamo presi non da Osanna Mantra, che abbiamo citato prima, ma da In the Garden, The Garden of Pharaoh, disco strepitoso con questo lancinante urlo che si muove sia verso il futuro che verso un passato che cancella appunto il senso temporale. Non c'è più uno spazio temporale fisso dentro le musiche di Popol Vuh, anzi c'è questa fluttuazione stupenda dentro questo viaggio cosmico nel vero senso della parola, e anche antropologico, proprio dentro quelle memorie anche arcaiche, ancestrali, che Popol Vuh con Florian Fichte hanno sempre cercato di evocare, e ci sono anche riusciti per tanti aspetti, anche attraverso appunto immagini memorabili come quelle ad esempio di Aguirre, proprio di Herzog. E se per molti aspetti Popol Vuh negli anni 80 poi hanno proseguito la carriera, tra l'altro anche con musicando Cobra Verde di Herzog, tanto per citare un film tardo di Herzog insieme a Popol Vuh in collaborazione, e poi insomma dopo poco Florian Fichte ci lascerà. Sicuramente negli anni 80 erano molto di culto, se non ascoltatissimi, perché insomma c'erano, diciamo, altre attitudini sicuramente più elettroniche, seppur Popol Vuh sono stati anche maestri i primi due dischi, e tuttora abbiamo in sottofondo In the Garden of Pharaoh, che è costruito anche buona parte sul Moog, anche Aftestunde, il primo disco, è uno splendido lavoro anche elettronico, appunto di sperimentazione sul Moog. Però negli anni 80 insomma c'era anche una certa furia, soprattutto per certe musiche alternative, antagoniste, come la musica industrial, e quindi sembravano anche molto lontani i tempi di Popol Vuh, se non per personaggi che come Current 93 da sempre si sono rifatti a Popol Vuh, anche nei momenti più industriali del loro percorso eccezionale che ci porta fino ai nostri giorni. In effetti, se Current 93 hanno perso un po' di smalto in David Tibet in questi anni, sicuramente hanno anche trovato in alcuni momenti quella maggiore riflessività che magari mancava nei momenti tra virgolette più furiosi di Current 93, come progettualità più vicino alle musiche cacofoniche rumoriste. Uno dei momenti decisamente riflessivi dove si torna insomma veramente ai momenti storici, magici di Current 93, con quel suono che va a evocare appunto queste antiche memorie, rituali, veramente quasi alla ricerca di una sorta di musica comune, una sorta di archetipo musicale che David Tibet da sempre cerca. E in alcuni momenti anche dell'ultimo periodo di Current 93 sembra accarezzarlo, come in questo Haunted Graves Moving Waves, disco veramente anche questo che riporta i vecchi fasti, la progettualità Current 93, e che unisce anche in maniera compiuta proprio questo passaggio tra le vecchie sperimentazioni di Popol Vuh e le nuove, non tanto nuove perché anche loro hanno una certa età adesso, Current 93, che poi sarebbe la progettualità di David Tibet, quindi potremmo anche parlarne al singolare, ma tant'è che è un gruppo aperto, quindi parliamone ancora al plurale. Current 93, quindi, da questo lavoro di qualche tempo fa, non molto tempo fa, che ci fa appunto percorrere le strade intraprese da Popol Vuh. 2010 per Current 93, questo splendido lavoro che vi consiglio vivamente, Haunted Graves Moving Waves, Current 93 appunto, che in questa situazione particolare di questo disco, anche perché poi di fatto insomma Current 93, la progettualità di Current 93 si è anche molto spostata, se vogliamo, su un folk ma anche insomma piuttosto classicheggiante negli ultimi periodi, quindi ritrovare anche un David Tibbett, in questo caso Andrew Lloyd, Baby D e John Contreras, decisamente più sperimentali e anche più ieratici nel loro essere appunto così illuminati e con questa voglia appunto di avventurarsi in questi territori splendidamente ispirati. Haunting Wave Moving Graves, ve lo ripeto perché vale veramente la pena, non facilissimo da pescare, da trovare, ma poi appunto visto che uso il termine pescare nella rete, insomma, sicuramente rimarrà intrappolato se lo cercate, se lo cercate dovutamente, questo disco del 2010 di Current 93. E ha una progettualità ricca, perlomeno di discografia, se non proprio di grande anche espressività, Current 93, ha una moderna, anche se non ama essere definita tale, ma molti grandi artisti non amano essere paragonati anche a fonti di ispirazione, come è palese che Fursaxa si rifaccia a Nico, alla Nico chiaramente quella di Desert Shore, quella più vicina anche alla Cicatrice Interiore, questo splendido film dove la vedeva protagonista, una sorta di sacerdotessa, veramente un viatico incredibile tra cinema surreale e visionario, e questa musicalità che vanno a incrociare appunto Nico, film tra l'altro di Garrel, che veramente trovano uno degli altri grandi momenti tra visione e suono allucinato, veramente di grande valore, di grande spessore e di grande immaginativa, ecco perché sia le musiche di Nico avevano questo valore, e sia anche quel surplus nell'immagine di Philip Garrel, soprattutto nella sua Cicatrice Interiore, e la Fursax appunto moderna e novella, anche seppur insomma ha già i suoi 10 anni sulle spalle di carriera discografica, se così se possiamo definirla tale, poi in realtà insomma anch'essa potremmo dire che più è un'ispirazione artistica, se non anche oltre, visto che Fursax sembra veramente una fata che ogni tanto va a scoprire veramente mondi lontanissimi, citando un altro dei nostri, tra l'altro ho citato anche spesso qua 451 frammenti sonori, vabbè, non vi devo dire qual è il riferimento di mondi lontanissimi. E Fursax ce l'andiamo a prendere dall'ultimo disco, anch'esso uscito nel 2010 come quello di Current 93, per chiudere la prima parte di 451 frammenti sonori, questa sera dedicata alle antiche memorie, veramente antiche se non addirittura ancestrali, in questo caso appunto torniamo veramente a una sorta di Big Bang sonoro come quello appunto di Fursax e del suo splendido disco uscito nel 2010 per l'ATP Recordings.